Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Pietro Salini, 55 anni, romano, sposato con un figlio, Gregorio, laurea in economia dal 94, l'amministratore delegato del gruppo Salini. Nel 2012 amministratore delegato anche di Impregilo, nel gennaio del 2014 è il numero uno del nuovo gruppo nato dalla fusione dei due che prende il nome di Salini Impregilo, un colosso con 34.000 dipendenti che operano in oltre 50 paesi e fattura 4.1 miliardi di euro. I settori di attività sono infiniti, qualche numero: 230 dighe e impianti idroelettrici, 6.700 chilometri di ferrovie metropolitane e aeroporti, 36.000 chilometri di strade, autostrade, eccetera. La sua è una passione di famiglia ereditata dal nonno e dal padre. È il capo di una tribù vastissima, è il numero uno dopo un duro contrasto anche in famiglia, ma è allenato, infatti è il primo di 10 figli che suo padre ha avuto da 4 mogli diverse. Allora, dottor Salini, lei è il primo di 10 figli, è stato più duro vincere in famiglia o scalare l'Impregilo? Beh, in famiglia certo è più difficile. Senta, 10 fratelli, cosa le hanno insegnato che poi è servito negli affari? Beh, intanto è una grande unità, la capacità di riuscire a restare insieme anche avendo delle storie. È una grande scuola. Grandissima. Senta, però per conquistare il comando anche una grande lotta con i cugini, è vero? Sì, è vero. E i problemi sono risolti? Direi di sì, adesso gli ho reso un po' più difficile lamentarsi. Senta, dottor Salini, lei come leader ha realizzato una progressione di crescita impressionante. Prima dell'Impregilo, la Todini. Ecco, che cosa vi ha dato la Todini che non avevate già voi? La dimensione, la capacità di lavorare insieme con delle persone che avevano un passato ed un'esperienza diversa. Sì, molti dicono che è stato un favore a Berlusconi più che un affare per la Salini. No, mai chiesto niente. Nessuno niente? Nessuno. Senta, però, tra le 4 donne che oggi avete nel consiglio di amministrazione della Salini Impregilo, Luisa Todini non c'è. Come mai? Questo per avere una percentuale degli indipendenti praticamente assoluta, una presenza del gruppo Salini molto modesta in consiglio. E questa è la ragione? Questa è la ragione. Senta, dottor Salini, a oggi la scalata all'Impregilo è il suo goal. Quando ho capito che si poteva fare? Ma quando ho visto che siamo riusciti a vincere in assemblea dopo un confronto durissimo, ho pensato, beh, allora ce la possiamo fare, e a quel punto siamo diventati abbastanza credibili da riuscire a granellare la somma necessaria per comprarla. E che ce l'aveva fatta veramente quando l'ha capito? Quando ho visto il sorriso di mio padre. Senta, lei è un romano che ha vinto nel Tempio della Finanza del Nord. Ha sentito l'ostilità? Beh, un po' di difficoltà c'è. Diplomaticissimo. Senta, chi l'ha aiutata di più? I nostri collaboratori. Sono stati meravigliosi. Per molti è stata la vittoria del capitalismo imprenditoriale, la sua, contro il capitalismo di relazione. È così? Ma non lo so, questo. Certo che è una sfida diversa. Non è stata per noi affatto di relazione, questo è chiaro. Senta, Giovanni Bazzoli, che è il grande vecchio della finanza italiana, ha detto al Financial Times che il capitalismo di relazioni non è all'origine della crisi italiana. Ha torto? Io penso che si possa avere altri punti di vista. C'ha avuto un blocco, ha fatto da blocco. No, ma è chiaro che tutto è relativo al tempo in cui le cose si fanno e si vivono. Oggi la sfida globale impone delle competenze e la capacità di essere competitivi che non può essere basata solo su un fatto di relazione. Quindi adesso le azioni si contano e non si pesano, come diceva Cucci. Adesso temo di sì. Teme o per fortuna? Ma io per fortuna. Senta, però suo nonno, il fondatore dell'azienda, con Mussolini aveva una relazione speciale e aveva relative commesse. Suo padre aveva relazioni commesse con Andreotti. Nel suo mestiere, insomma, si può fare a meno dei rapporti con la politica oppure no? Ma assolutamente sì. D'altra parte sarebbe impossibile avere rapporti politici con 50 o 60 paesi come quelli con cui siamo oggi. Però si dice che lei, senza il sogno di Monti di avere un campione nazionale delle costruzioni, non sarebbe mai riuscito a scalare l'Impregilo, vero? Non credo, no. Noi abbiamo fatto un percorso molto solitario. Nessun aiutino? Nessun aiutino. Senta, dottor Salini, ma per essere competitivi come voi siete sul mercato globale, non è anche necessario avere dietro in qualche modo il paese? Beh, certo, è utile. È utile o necessario? Direi necessario. È importante avere una politica di sviluppo che possa consentire alle imprese tutte, non solo quelle di costruzione, di penetrare i mercati. Ma nel mondo è così per tutti i giganti delle costruzioni? Hanno dietro i paesi più o come noi? Assolutamente. Più di noi? Più di noi. Sì? Molto più di noi. Il più grande cantiere del mondo oggi è a Panama e serve per costruire il secondo canale di Panama. Voi siete lì. Però ci sono problemi seri col governo locale per i costi dell'opera che vengono contestati continuamente, cambiano. Esattamente, come stanno le cose? Ma certo, è un progetto molto, molto difficile, molto competitivo. L'ultimo l'hanno fatto 100 anni fa e ci hanno messo molti anni a realizzarlo. L'ha realizzato l'esercito americano, tanto per dare un'idea di della forza, di quanto fosse necessario avere un punto di vista unico e riuscire a realizzarlo. E noi oggi stiamo facendo una sfida che è ancora più grande, perché questo canale è circa 3 volte la dimensione del canale originale. Quindi è un progetto di una difficoltà ma enorme. Ma a che punto siete? Siamo al punto di aver trovato un accordo di sostanza con il cliente per poter finanziare le opere fino alla fine del completamento. Perché quante sono, quanto ne avete già fatto? Ne abbiamo fatto circa il 70%. Ah, e si discute sul 30%? Adesso si discute non sul 30%, si discute su una serie di costi. Su quanto di tutto il 30%? Su una serie di costi extra che ci sono stati e su chi debba pagarli. Il cliente è difficile perché, come tutti i clienti, vogliono avere il piatto servito senza avere il conto alla fine. È purtroppo normale. Ma è il governo italiano in questo caso? È con voi? Vi serve oppure sì, no? È stato con noi. E come lo è? Beh, si è dato molto da fare. Ha mandato il sottosegretario. Sono stati contatti internazionali. Sono stati in contatti anche con l'Unione Europea. Ma l'opera quando sarà finita? Dovrebbe essere finita nel 2015. È pagata? Pagata, mi auguro, anche nel 2015. Senta, finora è stata l'opera, qual è stata l'opera che avete realizzato che le ha dato più soddisfazione? Ma direi una diga in Etiopia, che è quella che stiamo facendo oggi. È una... E perché? Perché realizza il sogno di un visionario, che era Meles Zenawi, che era quella di dare a un paese africano l'energia elettrica e la luce in tutte le case. Ecco, ma è l'opera più drammatica invece, quella più difficile da realizzare, a parte Panama, che mi sembra che sia difficile da farsi pagare più che da fare. Ma l'opera più difficile è stata, per esempio, un'opera abbastanza piccola, che è una diga in Sierra Leone che ha attraversato molte guerre e che quindi si è continuamente fermata. Inizia nel 70, accidente. Quindi tantissimi anni fa, e inizia con mio padre la costruzione e l'ho finita io, ma solo pochi anni fa. Ecco, in Etiopia voi siete stati accusati, appunto, della diga di cui parlavamo prima, dagli ambientalisti di distruggere con quella diga sul Nilo gli assetti territoriali e gli interessi delle popolazioni. Sono critiche forti, legittime. Sono critiche forti, ma infondate. Perché? Perché sono prive di un substrato di studio che quindi in qualche misura va a toccare degli interessi che sono esclusivamente legati a che cosa si fa. Se si fa l'ambientalista è ovvio che si parla esclusivamente di un punto di vista, ma avviene della gente che muore a 30 anni o a 25 e che ha tutti i figli che muoiono perché sono privi di energia elettrica, di luce, di un sistema di assistenza o di un sistema sanitario. E quindi è una prospettiva più ampia. Ecco, le grandi opere spessissimo in tutto il mondo cambiano paesaggio, cambiano la vita delle popolazioni. Ecco, voi le coinvolgete nella decisione che le riguardano oppure la subiscono e basta? Quando noi siamo sul posto facciamo quello che possiamo dal punto di vista del costruttore, noi non facciamo politica, quindi la parte del resettlement o dell'eventuale richiesta a tutte le popolazioni di che cosa ne pensano, quindi la parte di interview non dipende dalla politica. Dipende dalla politica. La nostra invece facciamo una politica sociale cercando di creare nelle comunità dove operiamo un benessere di fondo. Cioè... Senta, nel mondo delle grandi opere, come in quello del petrolio, però a livello globale, la corruzione è molto forte. In che zona l'avete incontrata di più la corruzione? Ma guardi, questo secondo me è un mito, perché può darsi che nel mondo in cui ci siano delle piccole opere che dipendono da persone, che possono essere in qualche modo dirette da persone e che quindi si possa essere un meccanismo privato di assegnazione o di gestione dell'opera, si possa fare questo, ma diciamo nel mondo delle grandi opere, che non c'è corruzione, è molto difficile che ci possa essere. Ditte grandi come la nostra oppure grandissime operazioni non sono soggette a corruzione. E quindi non c'è il problema di perdere commesse per volerla combattere? No. Non è mai capitato di rinunciare a una commessa perché aveva capito che, insomma... No, magari di non vincere. Ah, di non vincere. Ah, ecco, vabbè. Però lei ha vinto anche in Etiopia delle gare senza fare... delle commesse senza fare gare. Sì, ma perché eravamo i più bravi e perché le avevamo inventate. Senta, parliamo di commesse. Il prossimo anno sono sulla rampa di lancio grandi opere per 640 miliardi di dollari. Voi avete le dimensioni per competere? Direi di sì, stiamo crescendo per poterlo fare ancora meglio, ma è esattamente questo l'obiettivo di aver creato una società più grande. Ecco, ma sono gare che si fanno sempre in associazione con altri o anche da soli? Non sempre, anche da soli. Adesso anche noi abbiamo oggi le qualifiche per poter fare buona parte di queste gare da soli. Quando bisogna farle con dei gruppi possiamo selezionare noi e rimanere i leader, che è quello che vogliamo fare per poter mettere il contributo di competenza. E bisogna coinvolgere anche le imprese locali oppure no? Non sempre, non però è utile. Senta, ma se lei dovesse riassumere allora in una parola il segreto del vostro successo oggi, cosa direbbe? È quello di riuscire a fare in casa tutto, cioè noi ci seguiamo tutta la catena della costruzione, dentro. Quando è possibile cerchiamo di fare tutto. Pochi subappalti? Pochissimi, soprattutto nelle aree in cui questo è necessario, quindi nella maggior parte delle aree in cui operiamo è così. Ecco, io ho letto che il vostro fatturato è oggi per l'85% garantito da commesse estere. Vuol dire che per voi l'Italia oramai è un mercato marginale, eh? No, è un mercato che oggi è chiaramente in rallentamento, la crisi del settore è nota, quindi è evidente che oggi su questo settore... O si va fuori o si muore. O si va fuori o si muore, non c'è dubbio. Senta, in Italia però siete coinvolti nella costruzione della TAV. Ecco, secondo lei come andrà a finire questa storia? Però bene, noi stiamo lavorando a tutta forza per poterla avere. Ma secondo lei è un'opera strategica oppure no? C'hanno qualche ragione i contestatori? Nessuna. Nessuna? Ma nessuna. Strategica per lo sviluppo del paese, secondo lei? Assolutamente. Perché? Ma diciamo, se uno guarda la storia delle infrastrutture in tutti i paesi, sono stati il motore dello sviluppo ovunque. No, ma quindi, questa opera di questa in particolare di Genova è fondamentale. Un porto che è bloccato dalle montagne, secondo lei, è una cosa interessante. Certo, poco. Senta, ma poteva essere gestita meglio? Allora, se è così necessaria, indispensabile, strategica, tanti non sono d'accordo. Poteva essere gestita meglio. Poteva essere fatta molto prima, questo non c'è dubbio. Avrebbe sviluppato Genova in maniera diversa. Ho detto gestita meglio, insomma. Senta, voi avete molte specializzazioni, una più delle altre. L'acqua, ho letto nel... Sì. Che cosa vuol dire l'acqua come specializzazione? L'acqua vuol dire sostanzialmente occuparsi di tutto quello che è il ciclo dell'acqua, dalla raccolta e quindi dallo stoccaggio dell'acqua al suo trattamento, alla distribuzione e poi al riciclo dell'acqua che è stata usata. Ecco, Gheddafi diceva che per l'umanità la mancanza d'acqua diventerà presto il problema più drammatico di tutti gli altri. Aveva ragione. Lo è sempre stato. Tutte le guerre del mondo sono sempre state fatte intorno all'acqua. Se uno guarda, che intorno al petrolio. Più che intorno al petrolio. Il petrolio è un fatto molto recente. Certo. Senta, voi siete impegnati comunque anche adesso ancora in Libia. Come si lavora adesso dopo Gheddafi? Ma certo è una cosa abbastanza complicata, ci sono delle aree del paese in cui ancora non è assicurato. Ma lì per voi è complicato lavorare o no? No, è un paese nel quale abbiamo lavorato da moltissimi anni. No, lo so, ma adesso che insomma l'assestamento, vediamo che continuamente il potere non è stabile, ecco. Beh, noi ci auguriamo che questo invece si risolva presto, è un paese che ha bisogno di questo, di tornare alla normalità rapidamente, di avere uno sviluppo forte. Senta, ma lei l'ha conosciuto Gheddafi, che opinione ne aveva? Era un leader complesso. Leader complesso. Senta, ma qual è oggi il paese più difficile nel quale state lavorando da questo punto di vista? Ma verrebbe da dire l'Italia, ma non sarebbe carino. L'Italia è il paese più difficile, non è male. È addirittura più difficile di tutti. Perché... No, scherzavo. No, non mica tanto. Senta, ma tra i leader che ha incontrato nel mondo, c'è qualcuno che l'ha impressionato invece al contrario per la sua visione? Ma due direi, mi ha molto impressionato Mel Zenawi, che aveva una visione che effettivamente non ho riscontrato in altri leader, che pensava a un futuro in termini di molti anni vedendo il paese crescere e crescere. Cioè una vera visione strategica. Una vera visione strategica. E poi Obasanjo. Obasanjo è un leader nigeriano importante, anche questo è riuscito a portare il paese alla democrazia in un paese molto complicato con 800 milioni di persone, una persona estremamente interessante. Senta. tutti dicono che lei è durissimo sul lavoro, c'ha una faccia molto gentile, però è vero che è durissimo? No, assolutamente no. No? È il suo difetto peggiore qual è? Ma non lo so, è difficile dirselo da soli, ce n'ho tantissimi, quindi dica uno. Non riesco a scegliere uno in particolare, no, sono tutti che non sono troppo grossi. Buono, troppo buono per far di capire. Sai che è difficilissimo farsi dire un difetto dalle persone che intervisto? Molto difficile. Senta, in Italia il problema della disoccupazione giovanile è un problema drammatico. Voi assumete giovani o no? Ma noi abbiamo un programma di assumere 15.000 persone nel piano industriale, quindi nei prossimi 4 anni. 15.000 persone? Sì, vogliamo fare una bella crescita, l'azienda tende a un raddoppio della sua dimensione in termini strutturali e quindi necessita di un forte programma di assunzione. Nei prossimi 4 anni? Sì, stiamo cercando quindi adesso molti giovani. Ovviamente non solo italiani, ma una buona parte italiani, e stiamo facendo adesso una serie di programmi insieme alle università. Ma per che tipo di giovani cercate? Ingegneri? O cerchiamo di tutto? Principalmente giovani ingegneri, giovani laureati in economia, geometri. Senta, e che livello di formazione hanno gli ingegneri civili italiani, che immagino siano fra gli ingegneri quelli che cercate? Direi buona, ma ci abbiamo adesso in testa di creare un programma apposta, quindi fare un corso di studi specializzato nella gestione di cantieri. Ma organizzato da chi? Da voi? Organizzato da noi, sì, con delle università. Con delle università. E c'è un'università migliore delle altre per fare questo? No, ci abbiamo diversi rapporti, dalla Bocconi al Politecnico, alla Sapienza. Quindi lo cerchiamo di fare un po' in tutta Italia. Senta, il paese è fermo, l'ha detto anche lei, lo vediamo tutti. Gli investimenti in opere pubbliche sono crollati del 37% dal 2004 al 2013. Renzi vuole ripartire dall'edilizia scolastica, una buona idea? Ottima. Perché? Perché riesce a distribuire la domanda su tutto il territorio, quindi è un fatto importante per la ripresa dell'economia in genere. Non è il nostro mercato, però no, è un mercato importante per l'Italia. Lei ha un consiglio da dare a Renzi rispetto al vostro mercato? Ma intanto di crederci e poi soprattutto di ricordarsi che in tutto il mondo sempre la politica degli investimenti infrastrutturali ha fatto sì che... fatto ripartire l'economia. Sì, bisogna crederci e averci fiducia. Lei lo conosce? Io no. Non lo conosce. E del suo governo cosa ne pensa? Ma è troppo presto per dare un giudizio, penso che siano tutti molto motivati e mi auguro per il Paese e per noi che siano anche capaci di riuscire a realizzare quello che dicono. Senta, ma senza la riforma della burocrazia ci può essere un rilancio dell'edilizia e dei lavori pubblici? Bisogna avere una enorme determinazione, perché oggi il mondo delle regole che si è data la burocrazia, come dice lei, dal punto di vista della realizzazione, tende a eliminare ogni tipo di responsabilità e quindi di rendere incapace chiunque di capire chi è il responsabile che una cosa non si fa o si fa. Ecco, ma sulla riforma della burocrazia, dalla sua esperienza, che è grande perché ne ha a che fare molta, c'ha un consiglio da dare al governo? Ma diciamo da dove che... partirebbe lei? Io partirei dai commissari straordinari, cioè oggi è impossibile riuscire a modificare tutto, bisogna bypassare, come un bypass quando uno ha un particolare problema. E quindi ci vorrebbero tanti commissari straordinari con il potere di fare. Sulle opere strategiche, col potere di fare e con dei poteri straordinari, perché altrimenti è impossibile. È il patto di stabilità che blocca tutto. Anche. Senta, a proposito di lentezze, voi siete impegnati anche nella costruzione di lotti non so quanti della Salerno-Reggio Calabria, ma è una vergogna nazionale la Salerno-Reggio Calabria. Ma più che la Salerno-Reggio Calabria, che invece è un'opera straordinaria. Straordinaria, ma insomma, quando la vedremo? Sì, la vedrete adesso, per quanto ci riguarda molto presto. Ma quanto vi riguarda della Salerno? Due lotti, sono importanti, ma insomma stanno... Il resto con l'elicottero? No, il resto si fa lo stesso, ma... Il tema incredibile è che un'area del paese sia praticamente priva del controllo della legalità con cui invece il resto del paese è amministrato. Perché lì domina la criminalità organizzata. Non è che domina, però certo, insomma, che se uno va in un cantiere e vede un militare ogni 50 metri, insomma, capisce che c'è qualcosa che non va. Sì, ma mi riesce a spiegare 20 anni di lavoro e siamo lì che non capita niente, ancora che stiamo aspettando che arrivi? 8 anni per fare l'autostrada del sole, 20 anni per fare la legge Salerno. Ma noi ci confrontiamo in tutto il mondo e facciamo le opere in tempi assolutamente diversi. Sì, allora il problema qual è? Qualcosa me lo dica. Sono i poteri concorrenti, tutti in Italia, cioè, possono aprire. Lì comanda l'Ndrangheta. Non è solo questo, là comandano un numero impressionante di autorità. Quindi oggi ma cerchiamo... anche nel resto d'Italia comandano un numero di autorità, però no, qualcosa si riesce a fare, lì niente. No, questo non è vero. Non sono è che... 20 anni, dottor Salim, va bene. Sono 20 anni, ma io non faccio il politico. Ah, non faccio il politico, però molto, molto diplomatico. Senta, a Milano nel 2015 ci sarà l'Expo. Lei cosa si aspetta dall'Expo, se si aspetta qualcosa? Ma mi aspetto, è una bella infrastruttura, serve a fare una vetrina per l'Italia certamente importante, quindi mi aspetto che sia e che abbia il ritorno che tutti quanti noi ci aspettiamo. Un paese come il nostro ha diritto di avere una visibilità importante. Senta, le faccio un'ultima domanda. Un giornale titola "Dove osano i Salini?". Ecco, qual è la prossima sfida per la Salini in pregilo? Quella di continuare a crescere come abbiamo fatto fino adesso. In 10 anni siamo passati da 100 milioni di euro di fatturato a quasi 4 miliardi e 2. Spero che questo possa essere per i prossimi 10 anni un buon background. Senta, faccio un'ultima curiosità personale. Lei, l'abbiamo detto, ha 10 fratelli, ma ha un figlio solo. È perché ci sono già troppi Salini in giro? Beh, perché ho dei fratelli anche che sono piccoli come figli, quindi tutto sommato. Grazie. Mix 24 800 24 0024 il numero verde, l'SMS 349 238 6666. Mario, il titolo del faccia a faccia con Salini? La diga. Salini, due punti, la diga. Pietrangelo? Io sono sconvolto dalla notizia che la Salerno-Reggio Calabria sia una grande opera. Lo è. E quindi questa la mettiamo nel fantasy. Eh? Vabbè, titolo, facciamo la difficilissima Italia. Ok. Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andare lontano, puoi volarmi nella mano. Ma Sosa, cosa pensi? Tu vorresti partire come se andare lontano fosse uguale a morire. Oggi per dirci cosa, Pietrangelo, questa oggi, canzone? Questa canzone lunedì di Lucio Dalla, per dispetto. A chi? E per dispetto, perché ieri il presidente della Camera, o la presidente, non so come si dica, ha fatto il solito monito sul sessismo, contro il sessismo, e ho voluto fare una scelta sessista, perché se proprio mi viene un istinto sessista, ascolto questa canzone. Sessista? Vabbè. Hai visto? Come dice Minoli. Vabbè. Sembra una parola abbastanza usuale, sessista, per il nostro onorevole sì. Presidente. Non se ne può abusare. Non se ne può più. Un pochino. Un po'. Senti, vabbè, cerchiamo di metterci un po' di buon umore, Sara e Fiorello. Non so cosa avevi. Eccolo. Trago ispirazioni da cose che mi capitano. E loro cominciate a scrivere una canzone stupenda, perché Dia Daim per consulta fra Mitici CV. Esso, Issa, malamente. Ho scritto una canzone in una notte di note, di lune, di pianeti, di stelle, di via latte, insomma, una notte che avevo fumato. Ecco la fonte dell'ispirazione, perché un po' di autoironia fa bene, no? Ma certamente serve sempre a tutti, anche a te, Sara, dai, che cosa bolle in pentola? Allora, Mario... Vi dico che oggi diminuisco le tasse. Ammazza, non riesco neanche a parlare dagli applausi. Credi di essere Renzi? Ma l'hai visto da Fazio? Ma quella... io non l'ho visto. Oh, quella era l'intervista con la Clac. Tu sei avanti, fai il monologo con la Clac. Vabbè, ma l'hashtag qual era? Monologo con la Clac non è male. Non è male. Oh, posso dire a proposito, l'hashtag. Posso rendere omaggio a Paolo Omoboni del Partito Socialista, che vince le primarie del centro-sinistra al suo paese in Toscana, senza social network e senza hashtag. Certo. Questa è la rivoluzione che avanza. E questo è l'omaggio al glorioso Partito Socialista. Un altro applauso, please. Allora, Mario, cosa bolle in pentola? Bolgono un sacco di cose, però mi sa che c'è una cosa religiosa. Sì, è vero. Eccola. No, no. Questo è un meraviglioso canto gregoriano, ma ascoltiamolo, ascoltiamolo, bellissimo, meraviglioso, tutto il canto gregoriano. Sì, non butta fuoco. Però Giovanni, ti devo dare una notizia, bisogna aggiornarsi, il Santo Padre, non so se è giusto, lui si dice il Vescovo di Roma, no? Il Vescovo di Roma ha cambiato, adesso vuole studiare nuove cose, quindi cambia musica. La nuova musica per i tempi nuovi, perché Papa Francesco, nel festeggiare il suo primo anno di pontificato, ha detto che deve studiare tutta la modernità, farsene carico, e quindi anche le coppie omosessuali sono studiate dal Papa. E qualcuno malizioso ha detto e sarà la fine del celibato per i preti. Siamo rovinati. Mamma mia. Vai Mario, ma vai musica, ma quella colonna sonora era meravigliosa. Quella prima, la prima era bellissima. I canti gregoriano, meraviglioso. Lo so, ma io lo dico per voi che siete moderni. Fosse per me sarebbe canto gregoriano sempre. Vi Mastro riporto Eckhart. Tutti dalle aure celesti. Alle bolle. Dai. Ma che bisogno hai di smontare la compagnia? Perché è smontabile, va bene. Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. È tutta questione di soldi, ragazzo. Allora. Il resto è conversazione. Era la conversazione la nostra, non potendo certo fare soldi. Vi informo che le prime 5 banche europee dovranno pagare 10 miliardi di euro di extra costi per le indagini sulle manipolazioni varie dei tassi. C'è stato il LIBOR, poi il Forex e così via. Riguardano i colossi, sono innominati, ma li ricordiamo. Certo. Barclays, Deutsche Bank, UBS, Royal Bank of Scotland, Hong Kong Shanghai Bank. Insomma, accidenti. Devono mettere da parte questa cifretta e probabilmente anche altre per il futuro per affrontare queste cause che saranno un po' a ripetizione nei prossimi 2 anni almeno. È ovviamente un tema che riguarda la famosa etica del capitalismo e della finanza, di cui molto si parla e ogni tanto e poco si fa. Naturalmente bisogna vederci molto bene. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. È il passaggio finale epico di Blade Runner, tratto dalla grande opera certo di Philip Dick. Il film era diretto da Ridley Scott, come sapete tutti, e forse avrà avuto i Google Glass da indossare, non solo. Ma cose high tech che sono la nostra contemporaneità, il mondo che ci circonda. E la strategia di Google non è solo i Google Glass, cioè gli occhiali, ma anche orologi, accessori per lo sport, cioè quei detti i fitness tracker, perfino le giacche intelligenti. Io me lo immagino, per esempio, buttafuoco con una giacca intelligente, sì, che gli misura il QI, impazzisce completamente. Se avesse anche la giacca intelligente, sarebbe troppo. Te lo immagini, la giacca poetica, la giacca da varietà. Io rivendico la mia devozione a San Giuseppe da Copertino, il santo degli idioti, il santo degli ignoranti, il santo degli studenti, quello che riesce a elevarsi, a librare nell'aria, nell'assoluta. Comunque, nonostante tu provi a dare a gira, il tuo futuro è fashion e connesso, ricordatelo. Ah. Allora. La famiglia viene prima di qualunque altra cosa. È una questione d'onore. Vedete quest'uomo? Sarà come un padre per voi. Qualunque sia il problema all'interno o all'esterno della famiglia, ne parlate con Tony e Tony lo risolve. Allora? Chi era? Te lo ricordi, Buttafuoco? Sì, Sopranos. È la copia del Padrino. il surrogato. C'è un grande pace all'anima sua, ci ha lasciato James Gandolfini, tra l'altro a Roma. E, insomma, introduce un tema. Sarà una nuova età dell'oro per la televisione? E, caro Giovanni, tu che sei un esperto del settore, pare di sì, almeno io ho letto 2 cose molto interessanti nei giorni scorsi, una sul Financial Times e l'altra sul New York Times, dove si dice che per esempio House of Cards ha un grande successo planetario e piace moltissimo anche al mandarinato cinese, la serie con Kevin Spacey, e bisogna anche tener conto del fatto che la tecnologia multischermo, cioè il fatto che tu hai il telefonino, multischermo, l'iPad, multipiattaforma significa che il consumo di televisione non è affatto finito. Salamini. Il salamino è di ritagli, nel senso che ho ritagliato una straordinaria intervista di Alessandro Ferrucci ieri sul Fatto Quotidiano, no, domenica, a Francesca Pascale, che sarebbe la fidanzata di Silvio Berlusconi. Un'intervista deliziosa. A questo punto posso ben dire che Balzac questa volta ha voluto firmarsi con lo pseudonimo. Beh, è stata brava a darla al Fatto l'intervista. È stato bravo Ferrucci a catturare l'intervista. Sì, naturalmente. Però bisogna dire le cose che vengono fuori, che sono straordinarie. Allora, lei, la signora, è pronta a metterlo per iscritto e ha detto a lui, cioè al cavaliere, a Berlusconi: da te voglio solo una cosa, il calore dei tuoi abbracci. Cioè significa che non vuole il patrimonio, non vuole l'eredità, poi c'è la questione del matrimonio, insomma. No money, please. Una storia bellissima che si conclude nel finale, una notizia, una scoperta, scalcia sotto le coperte, e lei dice: però è bello, perché poi la sera, prima di andare a dormire, facciamo sempre la pace e ci abbracciamo sorridendo, e, insomma, diciamolo, noi italiani che eravamo abituati a Lando Buzzanga e Delia Scala in quella meravigliosa... lo straordinario racconto dell'amor litigarello, non possiamo che dedicare ancora una volta Jimmy Fontana, che canta: l'amore non è bello, faccio canzonetta, se non è litigarello. L'amore non è amore senza qualche batticuore. Pietrangelo, siamo il canzoniere, Pietrangelo? Vado alla lettura. È l'incipit. Andavano e sempre camminando, cantavano eterna memoria, e ogni pausa era come se lo scalpiccio, i cavalli, le folate di vento seguitassero quel canto. I passanti facevano largo al corteo, contavano le corone, si segnavano, i curiosi mescolandosi alla fila chiedevano: chi è il morto? La risposta era... Mix 24. Basta, ho deciso di rompere anche nelle bolle il monopolio dei salamini e di introdurre il famoso mercato delle banane. E perché? Perché i due più grandi distributori del mondo, notizia molto curiosa ma molto importante in quel settore dell'alimentare, cioè Chiquita e Fifis, si sono uniti, combinano il loro business, ci sarà uno scambio azionario. Risultato, tieniti forte Giovanni, cosa valgono le banane? 160 milioni di cassette di frutta vendute ogni anno, 4,5 miliardi accidenti, di ricavi. Leader anche banana nel settore del melone e dell'ananas. Tutti al mercato, ragazzi. E nel frattempo abbiamo il vincitore del nostro canzoniere, Emanuele. Emanuele da Magenta, pronto Emanuele? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Onorato di parlare con voi, dottor Scivago. Grande! Ma Emanuele, lei dov'è? A Magenta? Sì, abito a Magenta. E che cosa fa? Io insegno in una piccola università, ma non insegno queste materie, però nello specifico sono un lettore di libri. Fantastico, complimenti. Di questi tempi, grandi complimenti. Un grande successo, Feltrinelli! Grazie a voi, siete stati gentilissimi e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. E allora avrà il nostro libro, Dottor Zivago. Intanto io ricordo a quelli che ci scrivono degli sms gentili oppure anche di insulti che la cosa importante è firmarsi, perché se non vi firmate non posso leggerli, anzi non voglio leggerli. E intanto abbiamo al telefono il professor Doglio. Buongiorno. Il professor Doglio, buongiorno. Dunque, mi pare che ci sono delle grandi novità che arrivano dalla BBC in vista del rinnovo della chart per il servizio pubblico nel 2016, perché anche in Inghilterra, anche la BBC deve conquistarsi di nuovo il canone. Ecco, qual è la novità numero uno del direttore generale della BBC? La novità numero uno è che hanno deciso di fare una spending review piuttosto pesante, cioè? E di presentarsi in qualche modo al famoso appuntamento di cui ha parlato, avendo fatto tutti i tagli possibili. Hanno annunciato due tagli, uno sicuro, l'altro ancora da valutare ma probabile. Salta BBC 3, il terzo canale della BBC rivolto ai giovani, con notevole esperienza di produzione di comedy sperimentali. Quindi è come chiudere un canale, per tradurlo in italiano, come chiudere uno dei canali della Rai. Come chiudere uno dei canali Rai, ma purtroppo non basta questo, è a rischio anche il BBC 4, il 4, cioè il canale culturale, che alcuni ex presidenti chiedono di fondere con BBC 2. Qui la decisione non è stata presa, ma è probabile che sia difficile escluderne la chiusura. È come se Rai 2 e Rai 4 si fondessero, insomma. Esattamente, eh. Quindi la BBC si troverebbe ad avere invece che 7 canali... Una buona canali, idea, un consiglio. ad averne solo 5, il che da una parte dimostra che si può fare tranquillamente servizio pubblico anche con pochi canali. Però insomma la notizia è impressionante, perché... bisogna risparmiare, la BBC deve darsi un assetto meno ostrusivo, viene accusata di essere troppo dappertutto in qualche modo, certo. E in questo modo, cioè, una missione più precisa, magari più limitata, ma molto più forte, insomma. Probabilmente sì, anche perché non è che hanno deciso di chiudere e basta. No, da fine 2015 il canale 3 diventa un canale solo web. Quindi si risparmiano 50 milioni, ma una trentina di milioni di sterline vengono reinvestiti nella produzione di fiction a target giovanile, che poi andrà sugli altri canali, e soprattutto si intende sperimentare internet, cioè fare del grande marchio BBC 3 una, molto popolare tra i giovani, un canale sperimentale di nuovi formati, nuovi linguaggi, ma solo per la rete. E quindi insomma si aggiornano veramente, hanno avuto anche l'aumento del canone, avevano avuto poi qualche anno fa per sperimentarsi su tutte le piattaforme della distribuzione, se non ricordo male. Esatto, però oltre all'aumento del canone piccolo avevano avuto una brutta botta, avevano dovuto accettare di pagare loro i 250 milioni di sterline all'anno, circa 300 milioni, che costa il famoso World Service, il servizio mondiale della BBC, i famosi programmi radio in 99 lingue, certo, eccetera, eccetera, che sono stati il canale bandiera, insomma, la bandiera del servizio pubblico britannico e anche dell'Inghilterra. Fino a qualche tempo fa pagava il governo. E dal 2015 il governo non paga più, lo sapevano già, e devono trovare la maniera di compensare questi, tra una cosa e l'altra, 300 milioni di soldi. Quindi la Rai, che non ha soldi praticamente dal governo per fare Rai World, è già avanti, si è già messa sulla strada. Da questo punto di vista sì, però Rai World, se costasse 250 milioni di sterline, avrebbe sicuramente... L'amministratore delegato sarebbe contento. Sarebbe comunque più è molto interessante quello che ci ha detto, perché è uno stimolo per la Rai nella riflessione che anche lei deve fare in vista del 2016. Grazie professor Doglio. Sara Tardelli ha intervistato Giuseppe Scognamiglio, che è il presidente di Radio Oceano, una web radio appunto di Ercolano, con una missione precisa e difficile: la battaglia per il diritto alla legalità. Giuseppe Scognamiglio, tu sei il presidente di Radio Siani. Ci racconti quando è nata questa web radio? Nel 2009 ci siamo rincontrati un gruppo di giovani ercolanesi e cercavamo uno spazio in cui poter fare aggregazione, poter far nascere idee, progetti, e chiedemmo all'amministrazione la disponibilità, e dopo, diciamo, svariati tentativi, grazie all'amministrazione, all'allora sindaco Daniele e la sua giunta, ci diedero la disponibilità di questo bene confiscato, questa casa del boss Bisa. Senti, ma non avete mai avuto paura di possibili ripercussioni per il fatto che comunque voi avevate sottratto definitivamente quel bene? Dal primo giorno fino ad oggi abbiamo sempre una serie di pressioni da quelle che sono le famiglie. Ancora? Comunque siamo stati minacciati dalla strada di fronte al balcone della radio da questo folle nipote del boss che era appena uscito dal carcere, e a chiunque si affacciava al balcone veniva minacciato pubblicamente. Quali sono le difficoltà nel produrre, quindi nel trasmettere, nell'immaginare dei programmi che parlano di contenuti comunque impegnativi? Come si riesce a farsi ascoltare comunque? Si riesce innanzitutto dando un buon esempio, e quindi riuscendo a crearsi un background positivo e quindi un know-how che sia di spessore, perché poi molti sono i signori dell'antimafia, molti sono le persone che marciano su queste tematiche per visibilità o soltanto per accaparrarsi dei fondi o dei soldi. Noi lo stiamo facendo da davvero quotidianamente e lo stiamo facendo formandoci ulteriormente, tanto lo possiamo dire grazie alla Fondazione Polis presieduta dal fratello di Giancarlo Siani, che è anche il nostro presidente onorario. Grazie a CO2, a dei corsi di formazione che abbiamo fatto in radio, nessuno di noi veniva dal mondo delle radio, nessuno di noi era, diciamo, un esperto, e provando a commutare tutto questo sotto forma di trasmissioni. Avete uno slogan della vostra radio? In verità ne abbiamo due. Uno è il messaggio che avevamo su questo striscione anonimo della nostra marcia fatta per Colano, che è: le idee non si fermano con la paura. E un altro, diciamo, più radiofonico, che è comunica, denuncia, partecipa. Va bene, allora noi ci lasciamo con "le idee non si fermano con la paura". Grazie mille, Giuseppe. Grazie a voi e a risentirci. Grazie davvero tanto. Oggi con Marina Milone per la storia di Mix 24 facciamo un viaggio nell'ombra, un viaggio doloroso negli anni 70, un viaggio per ricordare quei ragazzi morti troppo giovani da una parte e dall'altra sotto i colori di due bandiere contrapposte, rossa e nera. La puntata è firmata da Amedeo Ricucci. Posso dire una cosa? Vai. Barbara D'Urso veramente ha detto che Siracusa è uno sperduto paesino del sud. Regaliamole almeno una serata al Teatro Greco di Siracusa. Imparerà. È veramente la domenica dell'orrore. Barbara D'Urso a Siracusa.